Prenditela tu, dai. Seia, seia. Ciao Gianni. No, qua sta arrivando bene. Diciamo Santiago 8, la radio è buona. Non la sento satto da io già, magari da te un pochino di più, non lo so, comunque. Per me sta andando bene, Gianni. Di amplificazione al microfono, di amplificazione però, prova. Beh, io ti ascolto bene, non so Gianni. Ho già a proposito doppio room, sai per caso dove trovare la vernice del 48? Io so dove trovare i coperchi nuovi. Vabbè, Massimiliano ha detto che i nuovi vengono a costare 15 euro, così uno o tutti e due? Io cosa mi dà? Ce li ho tutti e due nuovi. E cosa vuoi? Io non è che ti posso dare grandi cose. E quanto li vuoi? Dimmi. No, quanto, di là non va, lascia perdere. C'ho tutto, c'ho le staffe, c'ho le viti, c'ho tutti i ricambi. Guarda, io ne ho recuperato uno, l'ho fatto aggiustare, tutto quanto, però sinceramente parlando, insomma, devo rimetterlo un po' in setto per poterlo dare, perché effettivamente era tipo una grande buttata lì, in mezzo a tante altre cianfrusaglie, quindi un po' dimenticata anche, quindi l'hanno graffiata, ha preso un po' di ruggine, insomma, mi stavo mettendo l'idea di carteggiarli e di aggiustarlo, prima di... però comprare i cofani, così non so. Io guarda, ti posso consigliare di chiamare a Gigi Vulcano, che lui li ha pitturati e sa dove comprarla la vernice. Comunque in ogni caso a Predanidda, esattamente, cosa ti posso dire, visto dietro la piazzetta che dove c'era prima quello che vendeva tipo il mercatino delle pulci, che non so se ci sia ancora, c'è un negozio di vernici, tu gli porti il coperchio, guardano la vernice e te la fanno col tintometro loro e te la danno in bomboletta. Aspetta, fammi capire, ma chi è? Vuoi essere vernici? Non lo so come si chiama, io l'avevo presa per la moto, praticamente mi era sfuggita la moto, c'avevo un'anguria, la stavo mettendo sopra, mi è sfuggita la moto per prendere l'anguria, perché mi stava accadendo, ho mollato la moto e sto graffiata appena nei lati, e l'ho comprata lì, l'ho fatta fare, me la danno in bomboletta, me l'hanno data in bomboletta, sono andato e me la sono ritirata e l'ho fatta con la bomboletta. Non ho capito ancora, non ci sono arrivato, già, rispiegamelo. Allora, mi hai detto, c'è una piazzetta, dietro. Allora. cosa? La centrale del latte. Proprio la rotatoria, vai dritto, invece che andare verso Sassari, vai dritto a Predanidda, vai in fondo e c'era quel negozio che vendeva tipo il mercatino delle pulci, roba dell'usato, e a fianco a quel negozio lì c'è un negozio di vernici, che praticamente tu li poti coperchio e loro ti fanno la vernice uguale e te la danno in bomboletta, capito? Te la mettono nella bomboletta e tu te la puoi sfruttare tu. Ho capito. Guarda che è un leggero innesco comunque già. Quando parli è troppo amplificata e stai innescando leggero, si sente. Ho capito, più avanti di quello del mercatino dei pulci, sì, appena sulla destra, ho capito. Capito dov'è? Adesso innescano ancora, forse c'è il macchinino troppo alto. No, adesso va bene. E invece già nel Caprivo mi è sembrato di aver sentito una leggera alternata, se non sbaglio, riprova già nei Capri. No, allora avevi qualche uno sotto che dava fastidio, però già stai arrivando bene, Santiago quasi 9, quindi ha voglia. Dammi un controllo a me invece già, dalle parti tue, come sta arrivando questa radiolina? Già va bene, allora dai, a voglia. Tu con quanti hai fatto i siti? 474. Addio mi, ciu. E tu già invece? Ehi, ho capito. E dopo lui invece tu quanti? 7, 4, 6. Così, vabbè, tieni presente che io sono più indietro una valle. Comunque già va bene. No, spinge bene. Per me è uno dei pochi che vanno bene. Cosa? Che cosa? Ditemi. 7, 4, 6. Beh, il numero 1, 7, 4, 7, piccolino ma lavora bene. E quindi Gianni Capri 2, cosa mi vuoi fare, cosa mi vuoi dire? Ma è agganciato? 80 watt. 80 watt. E se no sarebbe arrivato 3 qua. Solo che lo passate voi, ditemi 1+1. Claudio, come si chiama? Aliscraft o Alicraft? Ehi, ma già sei sempre basso, sei 9+10 agganciato, se sganci arrivi Santiago 9, quindi vedi tu, qua il tuo segnale liscio deve essere 9+20, allora l'antenna va bene. Aliscraft. Eia, ti ho capito, però sei agganciato, se tu sganci, arrivi Santiago 9, non va bene, è troppo basso. Da 9,20 si è andato a zero. E nomi Caput Dora. Ciao, buonasera. Santiago 7, Gianni, di nuovo punti a capo, Santiago 7, partito condensatore di nuovo. Sì, 9,10, lascialo così, non toccare niente perché è il massimo segnale che può arrivare. Se dai potenza te ne vai a Santiago 7, vuol dire c'è qualcosa in corto. Scusa, hai spento e poi sei risalito, si è acceso da solo questo lineare. L'hai spento e l'hai riacceso, ok, quando spegni arrivi Santiago 9, quando accendi arrivi 9,10. ti comunico che Tino arriva a 9 più 20 qua, quindi ti passa Tino dalla Buddy Buddy. Gianni poi non ne parliamo. Qua da me a te non deve passare nessuno. Hai capito? Vabbè, dai, ok. Signori, io vi saluto e vado a mangiare. Anzi, rimango qua in ascolto un attimo e poi vado a mangiare, dai. Ne prendete voi, io non le prendo più. Ciao a tutti. Ehi, troppo casino, c'è questo canale, non si occupa di nulla. Ah, vero, mi boh. Cazzo, sono tanto, guarda, oggi, credimi, in tanti anni non ho, cioè, siamo stati sempre qua al 10, tutto questo casino non l'ho mai sentito, lo giuro, mai, boh. Ascolta una cosa, quando è che viene a prenderti questi tappi qua? Anche domani, io tutte le mattine passo a Roberto. Capito, tutte le mattine passo a Roberto, anche domani, se me li fai avere, me li dai e così inizio a prepararmeli. Allora passa, là, così andiamo a berci una cosa, un caffè, chi su chi vuoi, là, passa domani, chiamami per quello prima. Ma no, all'otto di Manzano. Ah, cosa cazzo all'otto, verso le 11, 11 e mezza, così, dai. Un attimo, dai, io sto facendo un corretti, vado a mangiare, dai, saluto tutti cordialmente, ci sentiamo dopo. Ehi a Gianni, dai, anch'io vi saluto, rimango in ascolto, sto aspettando una chiamata da Massimiliano, dai, e dopo che vado a mangiare. Ciao a tutti. Ciao, Claudio, ciao. Ciao Tino, ma ciao Claudio, mamma mia, ma sto pensando Alzheimer, mi credete, mi sugazzo di spagnoli. Sì, c'è casino. Oh T, ho spostato l'antenna, hai aumentato anche tu di segnale. Adesso quanto sono, porca miseria, sposta di nuovo. No, sei 9.20 pieno, prima non c'eri 9.20. Adesso sei 9.20 pieno e quando muovo li vai a... ti ricordi che ti dicevo non ti muovere a 9.20. Adesso sei 9.20 e vai quasi a 25. Bene, bene, bene. Vabbè, bastava non niente. Vabbè, ma tu l'hai alzata anche. Un tubo in più ho messo 2 metri, però ho spostato all'angolo, ti ricordi dove era, dove sono le direttive, perché era nell'altro angolo che non è mio, invece l'ho messo dalla parte mia, perché ho tolto la direttiva grande che prima toccava, adesso non c'è più quella, quindi nell'altra piccola non tocca e l'ho rimessa lì. Va bene, meglio così, dai. Sì, evidentemente è più favorevole per te, è aumentato di qualche punto, dai, va bene. Non fa niente, dai, io rimango in QRX, Massimiliano sei qua? Niente, vabbè dai, anche io mi devo spostare che vado a farmi una doccia, dai, veloce. E niente, se va bene più tardi, Ciao a tutti, riprendi Gianni? Gianni è andato a mangiare, dai. Mi Luca, attacca il Colt, chiude una cuzzolata a ghiaccio. Ok, dai, ci sentiamo dopo, io vengo qua che sto aspettando Massimiliano, sta riparando un microfono e devo dare 2 controlli, dai. Vai, vai, adesso faccio anche io, va. Attenzione, ti ascolti il nord della Sardegna, cambio. Nord Italia, ascolti centro Sicilia. Capa positivo, nord Sicilia, ascolti la nord della Sardegna che ti cordializza. Sì, positivo. Io con gli altri amici sempre qua dal centro Sicilia. Vediamo se ascolti, io sono Alfredo, vediamo se ascolti. Ogna casino, ciao ciao. C'è ciao, ciao Sicilia, ciao. Troppo parame qua, ciao, ciao. Caffa, dai, centro Sicilia, ti ascolto, ma pio pio qua, dai, c'è troppo bailare, troppo casotto. Ricordalizzo 7351, ciao ciao, stazione Tango India, November Oscar, Nocchettino, Tirumusco, qua, città di Sassari. Città di Sicilia, se ascolti l'isola sarda, Gappa! Vai Lu, vai, vai! E ora c'è un po' che fatta, non ce la faccio. Attenzione, città di Sicilia, l'isola della Sicilia, se ascoltate l'isola sarda, cambio! Ti sta rispondendo, eh. Ti però parlo lo so parlato, si compra della massa. Lo so. Com'è questo lecca-lecca, Luca? Va bene. Per fare il bailame va bene. Va bene. Attenzione, Sicilia, se ascolti l'isola sarda, gappa. Attendo, Dino, ascolti. Attenzione, Siracusa, se tu ascolti Luca nell'isola sarda, città di Sassari, cambia. Sì, Siracusa, ti ascolto. Permesso di... Va bene, ti ho ascoltato, 7351, ti ascolto, Siracusa. Sei l'amico di Sassari. Dai, arrivi Santiago 8 Radio 5, Santiago 8 Radio 5, qua la mia stazione, tutta bella bella. Ma dove ascolti Alfredo Sicilia? Ascolto la Sicilia, l'ascolto. No, ancora no. Ciao, divertitela che vado a farmi la doccia. Ehi, Tino, dai, già sono qua, aspetta Massimiliano, poi vado a cenare, dai. Va bene, a dopo, qua c'è Franco anche, dai. Franco di dove? Di Sorso. Ehi, mi a tutti. Ehi, già ti ascolto, Fra, ma mi sono lì che in mezzo alle balle tutta la di... Abbassa Fra, che sei satro. Guarda che ti sto prendendo un lineare su voi, Ho visto. Adesso attacco l'altra radio, vai. Faccio girare il mio lineare, ci avvedi. Dai che voglio vedere, io muoviti però, così vedo quanto c'è l'incremento. Non è Tino, per la carezza, io affitto, non ne ho, non ne ho mai comprato di quelli. Ah, io sono col baracchino, mi. Ma io lineare è perfetto, non ne ho, ce l'ho solo quello piccolino. Ah, ho capito, ho capito. E vabbè, anche io sono il 747. Io c'ho quello, il 747, è il 2231 e basta, non c'ho altro. Va bene, già va bene. Cavagaba. Li puoi attaccare qua, no, Claudio? No, al baracchino, no, io sono col baracchino adesso. Ho capito, tu sì, ma io non uso quello. Sto usando quello grande. Cosa ci attacchi lì, fra? Che già ne dà più la radio che il 747, lascia perdere. Lo so, che ti dà un po' di più. Ah, ho spostato l'antenna, l'ho messa forse più favorevole a te adesso. Com'è il segnale? No, perché non l'ho spaccato adesso. Non l'ho spaccato, gappa. Prima è leggermente meno del 9. Gappa, e adesso quanto è? Più alto del 9? Ora. Leggermente più alto, quasi 9,5. Gappa, e da te Tino quanto è? Allora, ti ho guardato anche con l'altro. Sì, 9,21, 22, dai. Insomma, questo 9,22 non ci esce dalla testa mai a te. Minchia, cazzo. Io almeno, come picchi ti ho dato 9,25, cazzo. Ma tu picchi non ne hai, hai capito? Se mi aumentavi di una tacchetta, allora eri 9,25. Invece sei in mezzo. Però sei fisso, non hai picchi di modulazione. Almeno in quello là. Perché sto usando il coso, capito? Il Royce. Se attacco il Cobra c'ha più picchi di modulazione, ma adesso l'ho spaccato, eh. Mica ti chiamo Claudio Cicaretta, gigante, eh. Che modulazione ce l'hai bassi, Claudio? Cosa? Modulazione troppo alta? È analogico, è come il vostro, che lo vedi leggermente. Questo o lo pieni o non lo pieni, hai capito? Cosa ti che hai parlato assieme a Luca, cosa hai detto? Ho detto a Franco che io non ho l'analogico, quindi l'analogico lo vedi se ce l'è anche un piccolo incremento, mentre invece il LED o lo riempi o non lo riempi, capito? O c'è o non c'è. Sì, quello è vero, Tino, quello già è vero, quello non riesco neanche a capirlo io. E vabbè, io sto andando con l'analogico. Ascolta Franco, la modulazione rimane buona, è buona la radio? La voglia! Quello mi interessava, perché sai cosa ho fatto? Siccome lui si dava 8 watt, mi saturava in quarta, quinta e sesta, lo voglio tenere in terza, allora gli ho abbassato i watt a 5 e lo posso portare sino al massimo lineare, capito? Posso perdere 10 watt, ma cosa mi nafutti? Non mi nafutti nulla. Sì. E come faceva a me nel baracchino, vai, quando attaccavo 7, 4, 7, lo mettevo al massimo lì, mi saturava. Poi l'ho abbassato e l'ho saturato più, l'ho messo a 4 watt. Sì, ma infatti non deve stare a fare dare il massimo al lineare e avere la radio brutta. Io preferisco perdere qualche watt in uscita, però avere la radio buona. Va bene, Tino? Caspita, cambia, guardami, io adesso sono a 2 watt di radio, guarda tu che hai la possibilità che sei più lontano, adesso aumento il watt della radio, guarda, ecco, adesso mi sta dando qualche cosina in più, però magari è meno picchi positivi. Certo, la voce è bella lo stesso, però te la comprimi appena, è più bella come il primo passaggio, ma infatti, conviene darle meno ingresso, perdere qualche watt in uscita, ma avere la radio bella, siamo un casino, noi togliamo piedi con questi baracchini. Guarda, lo porto al limite della sopportazione, guarda, allora, guarda così, ora, non so neanche se sono negativo, No, non sei negativo, ma ti mangia un po' la radio, era più bella prima, capito? Conviene perdere qualche watt in uscita, intanto non cambia niente, mi da 200, 180, 190, cosa giamba, non giamba nulla. Ma infatti, guarda, io lo tengo sempre così, lo lascio a 2 watt. Ed è perfetto, va benissimo, io lo ce l'ho a 4 watt, e 5 watt modulati, e posso usare anche la sesta marcia, e lo sfrutto tutto lineare. In quella maniera lo devo ottenere in terza marcia se non saturava. Più piena, però andava bene lo stesso, era molto chiara. Sì, sì, lo so, ma l'incremento, Fra, non è che, guarda, adesso, guardami tu, avanti, io sono a 2 watt, adesso aumento a 5 watt, che mi aumenta molto di più i watt, per dire, no? Guarda, posso andare anche oltre. Adesso per dire sono al massimo della sopportazione, però non so come sta andando la radio e non so neanche se è aumentato o meno. Sì, è aumentato, però c'è una desaturazione adesso. Vedi, quindi cosa me ne frega? Va bene così, va bene. Alla grande, qua non hai cambiato niente, capito? Hai cambiato solo la modulazione, l'intensità della modulazione e la qualità della modulazione. Ma va bene così, dai. Ottimo per la tua, Franco, allora. Me, guarda, questo era l'altro passaggio, me, claro, guarda un pochino, ha aumentato qualcosa? No, sempre lì, sì, 9,20, 9,22, 9,23, però ti ripeto, ti cambia la qualità della radio, capito? Claudio! Dimmi, Fra. C'è il telefono vicino? Sì, sì. Va bene, dai, dai, riprendete voi che io vado, sono da poco fa cercando di andare, ma mi trattenete. Dai, a più tardi se coincide, ciao, a dopo. Ciao Tino. Ciao a te, ci sentiamo dopo. Veglia, ciao ciao. Mica, i tappeti li ho smontati. Ora, Claudio. Aspetta, sono al telefono. Ah, ok. C'è qualcuno? Un minuto solo, ma sì. Claudio. Via. Ho detto che i tappeti li ho smontati, non so se mi hai sentito. Condor da Pollicena. Luca, chi è? O più forte, ascolta, guarda se senti roba di gracchiolio, roba così. In questo canale non tengo nulla, ma si fa un casino della Madonna. Aspetta un attimino, aspetta. Poi al 13. Amico della Nord Italia, ascolti la... No, non ce n'è, Massimiliano, il rumore. Abbia gioia a tavolo, ne? Massimiliano. Sto cucco. Massimiliano. Mi ascolti che chiama la Calabria, porca miseria, ne? Nascere dette camicie, poi scendete qui in Calabria, vi mangiate l'anduia, è tutto ok. Uso studio. Daniele, com'è il fagiolo? Avanti, adelante, avanti mio hermano, ascolti la Italia, sud della Italia che ti chiama. Ok mio hermano, ti ascolto tanto con un fusco, ok hermano, ok, cinque avanti per te mio hermano. Oh, c'è scattelano, ma tu. Mio hermano, se per favore c'è un amico il microfono facile, ha rotto le pelotazze, non ho capito cosa hai detto, avanti per te di nuovo, cambio. Ma hermano, sto cazzo sei, FM o AM? Allora, mio hermano, FM o AM? AM, tu dove cazzo sei, FM? Non ho comprendito, ok, dai, mio hermano, no. Dov'è che tu, dov'è il tuo QRZ, dai, io qua Italia Calabria, Gioia Tauro, tu dove trovi? Spagna. Valencia dove? Ok, no. Hermano, allora qua uno alfa tango, 3 sbagliato niente, ok mi hermano? 1 tango 4-4, 3 di per te. Arrivando cagna lo italiano. Chi è sul 10? Aiuto, avanti. avanti su 10, cambio, passo, compro e vendo. Massimiliano, ci sei? Abbasso, arrivo. No, faccio uno deve fasciare tutto. Aspetta, Massimiliano. Ma non c'è Massimiliano, devo fare un controllo. Vabbè, dai. Chi c'è qua su 10? Io che me sto andando a mangiare. Cosa volete, Roberto? No, sono andato adesso, ero con un ritardino sul 29, mi stavo facendo sentire i due microfoni. Hai sentito col Turner a Riccardo? No, col Turner più 3, cosa? Con Super City? No, il 3. Riccardo ci sei? Vabbè. No, il Turner più 3B, come quello che c'ho io. Ci sei, Riccardo? Come questo lo sto usando io, quello nero. Perché tu il più 3 stai usando? Sì, Turner più 3B. E dove c'è attaccato? All'Elbex. È un bel amplificato, sì, un bel forte, sì. Aspetta, c'era Riccardo, l'avevamo detto, andiamo a Mare Tullio, andiamo sul 10. Avanti Riccardo. Ci siamo spostati là perché c'era una propagazione assurda. In certi passaggi lo coprivano pure. No, non so. Ma c'era anche Massimiliano che stava sistemando un microfono. Non c'è più. Ma cos'è questo Elbex? È uno stazione base o un veicolare? No, un veicolare 120 canali, ma esce molto molto bene. Manco ti sento io a te, dove eri tu, se attacco il cobra ti sento. Questo non prende splatte, questo mi ha regalato la buon'anima di che è morto. Di Pinaggio. Quello che usava lui, ma quello Lebex è quello argentato o quello nero? No, questo è quello nero, questo è quello nero. Ehi, aspetta se Riccardi non è entrato, avanti Riccardo per Claudio. Che fine ha fatto, Riccardi? Non so quanto c'è bene, è uno spettacolo quella. E addirittura anche con l'MP più 5 sull'altro apparato, bellissima modulazione, proprio bello. Sì, sì, ma l'ho sentito, c'era Sergio stasera che stava parlando con Fabio, già l'ho sentito. No, questa c'era nulla, questa esce un po' forte la radio. Pure troppo forte, forse siamo troppo vicini pure. Ok, Cla, mi hai dato, quella roba l'ho vista, me l'ha restituita, penso ti sia servita, mi immagino. No, vabbè, senza di quello ero morto, toccava stare sale e scende, ma non so quante volte sono salito nella scala sopra, no? A regolare, scendere, salire, scendere, salire. Cazzo, tu figurati, casino che dovevo fare. Poi mi ha portato due volte la stessa manuale di istruzione dell'ICR 7000 dell'ICOM. Se la vuoi una copia te la restituisco o la tengo io, cosa vuoi fare? No, Rubi, tanto io non ce l'ho, tienila tu, se poi dovesse capitare magari qualcuno si compra un ICR 7000 e non ce l'ha il manuale, glielo dai volentieri, io non me ne faccio niente. Una domanda da un milione di dollari, te ricordi quello che mi hai dato, il TS700? Rispetto all'altro, al gemellino di quello che ho io, del 711, che differenza di prezzo c'è tra uno e l'altro? Si può fare uno scambio o vale più il 700 l'altro? Non ti ho capito, tu vuoi cambiare il 700 con che cosa? Con il gemellino del 711. Con l'811? Nessuno lo prende a scambio. No, però no, 811 vale intorno ai 300... sui 350 euro, forse sì, 350 euro, il 700 è intorno ai 250, vabbè. Ma se c'è qualcuno poi magari anche aggiungendogli qualcosa a un prezzo ragionevole, tanto quello non lo sto utilizzando, è sempre sudato, ogni tanto lo accendo, però per fare la compagnia all'altro, visto che le V ce le ho solo in coso, in veicolare, diciamo, non importabile, non ce l'ho, io lo voglio in base. Vabbè. Se lo trovi te lo metto, se lo trovi te lo metto, prendilo subito, provaci, metti, scrivi qualcosa da qualche parte, vedi un po', capito? Però il TS700 è una bella radio, se lo senti in banda laterale è una favola quella radio, meglio del 711, vedi un po', magari aggiungi qualcosa. Infatti stavo pensando a chiederlo se c'è qualcosa a volte, non è a doppione. Ma non credo, ce n'era uno da poco di 811 su eBay, non so se l'hanno venduto. Riccardi. Allora ho fatto la pelle, gli mando un messaggio, ma la luce gli è mancata. Non lo so, ti sto dicendo, mi sono curioso di farti sentire perché c'è una radio spettacolare. Prova Riccardo, non sei uscito. Se lui non sta uscendo di radio. Riccardi. Vabbè, non sta uscendo proprio. Adesso mi sentite? Ok, dai, sì, sì. Ok, va bene adesso. E adesso volevo una prova da Claudio, che sto usando il Colt con l'MB più 5. Comunque saluto a Claudio. Ciao Ricca, vai benissimo, alla grande, non c'è problema. E il partner cosa ti è successo, Rick? Il partner adesso, l'SB è di qualche volta diventa sordo e quindi ho attaccato il Colt, però il Colt non gli attacco il partner, come ho detto devo fare ancora le connessioni. Come diventa sordo? Sono stato usando 5 minuti fa il coso, il coltarne, il baracchino, ti sentivo perfettamente, infatti lo volevo far sentire a Claudio. Quando passo sul 10, aspetta che riprovo, lo riattacco a vedere se va adesso. E chissà cosa hai combinato, non lo so. So che oggi c'è questa propagazione brutta, cazzo, è una cagata, è un disturbo continuo. Una cagata solo, è tutta la sera che i segnali bassi non si riesce a capire un accidente. E come mai c'hai tu questa roba di Pinangelo? Per me era come un fratello. Per me era come un fratello. Ci conosciamo una vita, abbiamo fatto di tutto di più. Ho fatto due radio, 0-140, 4-40, 140, l'avevo venduto a Cosio, a Daniele, l'avevo fatto comprare, 4-40, l'avevo venduto a Cosio, a, come si chiama? A Vanni, il programmatore di Alghero, che adesso c'è l'Antonio Riserva, quella radio. Ricca dice sì, ma c'aveva già la prima quindi questa roba o l'ha recuperata di recente? Ehi, ciao Lombe, me l'aveva regalato prima di morire, è morto. Ma di cosa è morto? L'hai saputo? Ehi, una specie di tumore, cos'è il genere? Ah, poverello, era in gamba, una persona molto, a me piaceva perché era una persona vera, non era il falsone come molte volte si sentono. Poi era genuino, tutto quello che doveva dire lo diceva, non gli fregava niente di nessuno. Certo. Dai, fatti sentire la Claudio, fa un passaggio lungo, ritardi e vediamo. Ok, adesso sto provando l'SBE con il Turner e voglio vedere come sta andando. Dimmi come sta andando, Claudio. Questo cos'è, il Turner o l'SBE? L'SBE è il baracchino e il turner è il microfono. Ah, bene, bene, bene, ma lo puoi tirare su ancora? Posso ancora tirare su, il mic gain del microfono infatti è a metà, non è al massimo. Il mic gain della radio? Ma l'abbiamo fatto le prove, Claudio, deve mettere la radio al massimo e il turner a metà, sennò poi esce una cagata. Ah, già fate così, allora lascialo così, va bene, non c'è problema. Ancora? Cosa hai detto, Riccardo? Abbiamo parlato assieme? Ma c'erano le connessioni, diciamo, improvvisate, doveva chiuderlo bene qualcosa, il padre gli ha fatto dei collegamenti. L'MP5 spinge di più del turner, però è meno diciamo naturale la voce, conoscendolo dal vivo, però sono tutti e due belle. Il turner c'ha una modulazione della paura, vorrebbe un peluzzino più forte, però probabilmente con quell'apparato più di così non riesce a uscire. L'MP più 5 gli dà un po' di acuti, un po' di più di acuti, però la radio è bella squillante. Dai, rimettiti il coso, l'MP più 5, dai Riccardi. Ma Sergio se la cava a cambiare le connessioni? Non lo so, il padre dico che li hanno attaccate, ne hanno qualcuno di tanne, ne hanno preso, però erano ognuno diverso dall'altro come connessione. Oh, cambiano. No, ma dico, nel caso ne ha uno da poter sostituire e cambiare la connessione, se la cava Sergio, no? Penso di sì, gliel'ha fatta il padre le connessioni. Allora non c'è problema. Come la senti questa radio, Claudio? Bella, va bene. C'è una ricezione a sto baracchino favoloso. Che ieri mi hanno detto che non era amplificata, ho detto buh. No, è bella, bella corposa. Va bene, dai. Ok, Riccardo, sei rientrato? C'è una Massimiliano, non so che canale è andato, cazzo blu. Ma quando ci sono stati c'era un po' di gente facendo prove e controprove, infatti prima eravamo sul 30, c'era gente sul 30, poi sono andati il 29, poi il 33, vabbè, poi siamo tornati indietro, il 33, probabilmente non era sintonizzato su quel baracchino di Riccardo, o non ce l'aveva, era in un'altra posizione, perché io ero 33 e lui era da qualche altra parte. Riccardo, ci sei? Ma spesso prova a chiamare Massimiliano, che se va bene il microfono. Riccardi! Hola. Aspetta Roberto. Ehi. Break. Avanti break. Ok, buonasera. Vorrei la stessa prova, Ok. Ma è così, ho sentito un controllino di Santiago di radio. Esattamente come la radio. Allora, Santiago è 9 più 5, la radio non mi piace molto, è un po' compressa, niente di quantità, cioè niente di altissima qualità, comprensibile però non è eccellente, diciamo sufficientemente chiara, però non puoi andare molto meglio. Ok, va bene, grazie allora. Cosa stai utilizzando? Baracchino e microfono? Sì, baracchino e microfono. Sì, no, che baracchino e che microfono? Sto usando l'8001 e abbinato delle stagne. Ma ti sta portando appresso un disturbo, però, un ronzio, ma ti sta aiutando con qualcosa? C'è questo rumore di sottofondo, una specie di alternata, si sente. Non parlare, manda solo portando. Sì, c'è questo. Verifica qualcosa perché c'è un disturbo abbastanza evidente sotto. Ah, ok, aspetta che cambi il microfono. Riccardo, sì. Vedi un po' se qua adesso il rumore, un po' per la pronta, vedi un po'. Scusa, mi sono allontanato un attimo, riprova. Vedi un po' se qua adesso, ho cambiato il microfono. Aspetta, fai un passaggio, vai sul 12, aspetta, il canale che forse c'è un disturbo te lo porti come battimento, aspetta, guarda se sul 12 c'è qualcosa. Vai sul 12, Urania, vai sul 12 un attimo. Ci sei? Mi aspetto al telefono. Questo è partito anche con chi segna, chi ne è me. Che dopo che come gusta mi sta amplificato e te io lo so. Non sale il ruio, Artenna non sale, no? Vamo a ver si sale questo mattina. Guarda che vengo io atrás. Había aquí con la tierra artificial que suena de una cagada, pero bueno, sí. Eso fue, a la final de la cena, lo en la idea y bueno, pues ya será un latinito, muchas risas por todos lados, el latillo nuevo, así, ¿verdad? Aquí se arregló el problema solo que se le calma a mí. Calma a mí. Luego también, créeme, vamos, créeme, aquí está tu casa, tiene freno todavía, tiene freno. Beh, c'è qualcuno su 10 rimasto. Riccardo. Claudio. Attenzione 10, c'è qualcuno su questo piccolo canale. Ola. Attenzione compagno, se scucci l'Italia che va chiamando. Brecco Italia. Su 10? Io. Tu sei lui? Io. E come stai uscendo? Col 48, col modificato. Perché non va bene. Cosa vuol dire modificato? Quello, questo qua, mi cambio. Ma non è quello il Typhoon, non c'entra niente? Il Typhoon, sì. Se ti faccio sentire un altro, aspetta. Riccardo, ci sei ancora? Prova un po' roba è questa, 1, 2, 3, prova. No, questa è la sua musica, è molto più bella questa, più naturale. Questa è il 2009. Questa è una bella radio, bellissima. Ok, da. Andava, il tipo mi ha detto che non era graffiata, era questa graffiata, ma per carità. Va bene. Però l'importante è che funzioni. Brutta sarebbe stato che era lucida e biodegradabile. Ah, vabbè, dentro è nuovo, abbastanza. L'ho aumentata solo di LC e basta. Va bene. Non arrivo di segnale, c'è proprio stesso, no? 925, una bomba è questa radio, che microfono c'ha? MB più 4, abbinato uguale all'altro, al Typhoon, l'altro come hai inviato tu, dai. Ma scusa un attimino, quella che stavo usando prima cosa era? Il Typhoon, quello modificato a Colt. Però ti sporca un po' la modulazione, questa è perfetta, bellissima, proprio una delle più belle. Allora, va bene, e lascio questo qua, che è che c'è? Allora, io ero sul 29 un'oretta fa con Riccardino, stavamo facendo delle prove, c'è una modulazione da paura, bellissima, col tunnel e BBV 5. Poi ci siamo risultati sul 10, un attimino, poi è scomparso, c'era anche Claudio, forse Claudio è andato a mangiare, perché mi ha chiesto un controllo uranio, ci siamo spostati sul 12 e sono rientrato e non c'era più nessuno. Avevo avuto un problema. Comunque ho ordinato il coso, arriva, doveva arrivare venerdì, roba, 29. Vabbè, poi ci sentiamo quando ce l'hai, mi fai un fisso. Senti a Riccardino, guarda sì, col più 5 col tan, Riccardo. Più 5 sono adesso. Prova. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova radio. Adesso sto usando il Colt con lo ZGMV più 5. Cavolo, bella, bella radio, sì. Allora non ti sento, prima facevo fatica a sentirti. L'hai fatta la modifica, sì? No, no, non ho toccato niente ancora. Se fai la modifica c'è ancora più forte. Ma non è che ci vuole molto, un po' te devi fare. Una saldatura e basta, un filo, basta, un filetto. E fa la modifica. Ma dove? Sulla capsula? No, nel circuitino. Ah, ho capito. Un attimo. Qualcuno. Tu arrivi bene, ti ascolto bene. Ma ti chiama Roberto? 9,5 con i picchi positivi. E riesci ad arrivare quasi a 9 più 10. Ti ascolto forte e chiaro. E già Rubredo, da 9,5 quasi 9 più 15. Ciao Gianni, la radio è un po' graziante però il segnale è forte. E tu come mi senti invece adesso che ho il microfono amplificato? No, adesso sto usando il Colt, prima stavo usando l'SBE SA 2800. Basta la voce, gà. Ciao Gianni, no, come mi stai ascoltando? Sono vomitata. La gola è modificato, dai, ogni tanto l'attacco, va bene, dai. Che ne so, dai, adesso facciamo la puntura a mamma, riprendirò bene. Ehi, Luca, è bellissima questa modulazione luce, ma l'altra è troppo da combattimento. Con questa invece è molto più chiara, come piacciono a me, forte e chiara. Però a te ti devo dire una cosa, sei troppo forte di radio tu, o ti allontani un po' dal microfono, Gianni, se no gracchi un pochettino. Sei troppo lontano adesso. C'è la Claudio, l'Espander 500. Se riesci ad adattarlo alla radio è un grande microfono quello. Sì, sì, già lo conosco, l'Espander 500. E c'è anche il controllo di tono. Ehi Gianni, sì, un attimo che sto sistemando perché ho un po' di confusione, continuate, ritorno subito. Gianni, tu sei attaccato, stacca un pochettino a vedere. Allora Gianni, stai uscendo che è una meraviglia, veramente ti ho scritto, ho sentito così bene, segnale 9 più 5, radio perfetta, non tocca nulla, non alzare né potenza né niente, no, che cos'è, l'ala 48 poi. Guarda, questa va benissimo, così come stai uscendo, anche se c'è un po' di disturbo, ogni tanto c'è qualche spagnolo che ti, non dico che ti schiaccia, però ti dà un po' di disturbo. Seriale forte, radio pulita e chiara. Da parte mia, con quel tipo di apparato, stai uscendo alla grande. Se ti interessa, c'è Raccoso, una persona sta vendendo un Saturn Echo con un, non mi ricordo se è l'M600 di microfono, 280 euro, nuovo. Sì, sì, sicuramente è una buona macchina, dai. Vediamo se Riccardino è rientrato. Avanti Riccardo. Luca, ci sei? Sì, già. Stavo fatto appunto la vecchia. Ma è una cosa immediata fare l'appunto nella pancia, gliela fai Luca. Ultimo di bianco, Come? Che ero giù col cane, ti ho chiamato col portatile, ho lasciato un attimo di bianco, non sono riuscito a entrare. Se c'è una propagazione spaventosa, già, chi ti ha sentito? Sì, probabilmente anche quello, ma non lasciavate bianco. Vabbè, comunque buonasera a tutti. Ehi, probabilmente non ti abbiamo, cioè, probabilmente non ti abbiamo sentito, a parte che mi sono anche spostato un paio di volte, io sono rientrato qua un quarto d'ora, ho chiamato qualche volta e non c'era nessuno, infatti ho detto ma non c'è più nessuno. Vabbè, non fa niente, non c'è problema. Buonasera a tutti, ciao Luca. E beh già, allora. E allora che? E allora che? Aspetta che mi sta mandando un messaggio. Ah sì, il 39. No. Ah. Vai Gianni da Muros. Ogni casino. Ah, pensavo che fosse di Tino, non era di Tino assolutamente, quello me l'hanno dato da fuori. Tino vuol dire TM, vuol dire Tino Muscolo, vuol dire. Ok, ok, Gianni doppio numero, riprenditi il mic. E allora, perché Luca me l'ha chiesto, più male o più bene arrivo con questo? No, no, già, si assumono un po' tutte, dai, pensavo fosse il 3009, no, arriva, funziona bene. Andiamo a sentire Roberto, dai, vediamo un po' la differenza dalla mia alla tua, dai, vediamo. No, ma adesso non ce l'ho attaccato, adesso non lo attacco, dai. E se no devo stare a staccare, a fare, sono con il capo, sono sdraiato, dai, non mi voglio attaccare tutto. L'ha sentito già comunque Roberto. Questo è Saturnet. A me piace Saturn Echo con questo microfono, con che microfono è questo? Savetta Master Plus. Oh, va benissimo, funziona più che bene. Vediamo se Riccardino, avete sentito Riccardino col Tanner e con le MB più 5, una bomba. Già l'ho sentito. Anche col Tanner l'hai ascoltato? Eia, lo stavo ascoltando dal portatile, poi ho provato a chiamarlo, niente da fare. Purtroppo se c'è casino non ti sentono col portatile. Mi che arrivavano 9 più 20 me, qua c'erano dei segnali che arrivavano 9 più 20 spaventosi. Non so, tutta la sera così, anche qua. Mi sono spostato prima sul 30 e c'era Burutto, poi siamo andati sul 29, anzi sul 33 c'era Burutto, alla fine siamo andati il 29, era il canale un po' più tranquillo. E che? Avanti signor Giovanni. Sì, domani Giovanni. Ciao. Vabbè, fanno un controllo, come si dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prova, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Canta, mi pare uno muriccio, Antone, canta, mi hai fregato, perché ho visto il segnale, ho detto questo è Giovanni, invece no. Segnale 6960, la radio così così, troppo occupa. Guarda adesso se è migliorato, c'è il pulsantino dietro del microfono, guarda un po'. Migliorato? Sì, adesso è molto meglio. Per bene, 9 più 20 sei qua. Capito? Tutto a posto, arrivi benissimo da capito da Muros. Anche Roberto, sto usando lo Yaesu in questo momento, ho avuto 5-7D. Che bella radio, dai, bella piena, potentissimo, ma stai caricando forte, no? No, sto caricando normale, non forte, ci mancherebbe. È l'unica che funziona bene, vabbè, a parte i baracchini che pigliano colpi, questo è il migliore. No, no, la radio è bella, bella chiara, pulita. Chiediamo conferma anche quelli più lontano. Vediamo Gianni Doppio Rum e poi Luca Del Monte. Sì, ciao, ho sentito, già va bene. Anche lo ascolto bene, la pompo bene, mi ascolti? A voi ti ascolto bene, perfetto, sì, di lusso. Questo è il 3009, mi è arrivato oggi. Era ora, almeno ti sento come si deve, fagli la modifica dell'LC e sei tranquillo. No, ho già aumentato la LC, pompo, è a manetta. Ah, che watt? No, i watt non li tocco, i watt li lascio così, intanto mi compro un amplificatorino piccolino. E così non sto a regolare niente, dai, ho... praticamente ho... ho spostato il jumper, dai, per i canali e la LC, basta. Ho capito, va bene, va. Vento subito 2 minuti. Claudio. Chi è avanti? Luca, guarda se fa quel rumore. No, aspetta. No. Ok, dai, ho bloccato tutto il filo dentro. Manco male, perfetto adesso. Cava brioche, dai, tutto lo giro. Vedi, anche muovendo il microfono non fa nulla, dai. Ehi, aspetta, chiudo, sono 25, riprendete. Ehi, dai, no, era giusto una prova così veloce, dai. Ciao, ciao a tutti. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano. Vai Gianni da Muro. Oh, scusate, sono entrato così, dai. Ciao a tutti, vi saluto, era una prova, scusate se sono entrato così. Non ti preoccupare, non c'è problema. Ok, avanti Gianni da Muro, se poi Gianni Capri, vedi Gianni Capri 2, Gianni doppio Ehi, allora, ciao Massimiliano, mi sentito ben entrato, va? Non so se ti vuoi trattenere o che cosa, fammi sapere. No, già, scusate, saluto a tutti, no, sono entrato per provare quel microfono, già. Ti ricordi che faceva tutto così usciva? Era perché c'era tutto il filo mezzo mollato, mentre gli ho fatto fare un giro. E adesso spero che non stia facendo più nulla, là, credo. Guarda, la sua portante è fissa. No, adesso va bene, non sta più facendo, ma c'è via. Meglio così. Ok, dai, vi saluto a tutti, allora, buona serata e buona continuazione, vado a mangiare la pappa, ciao ciao. Ciao Massimiliano, ciao, buonanotte. Ciao Bulldozer, grande. Mi aspetto 2 minuti, dai, vado subito. Cappa. E beh, già, allora, cucatisi. No, non sono seduto sul letto adesso, vai, sto parlando seduto.